Ora, che sono le 10? Oi, buonasera Roberto. Ciao a tutti, bene. Tutto a posto? Tutto a posto. Quello che è a posto, che c'è nel posto, do Caponillo. Ehi, ma stai spingendo troppo tu, mi pare, o cos'è? Cosa, Robè? 9:25 qua. Sì, va giù fredda rimane, adesso si va a ciuffa. La ciuffa è attesa, vabbè, già per freddo. Sbaglio, oggi c'è più caldo degli altri giorni. Sì, adesso sono salito dalle punti, c'è la mia figlia, si stava bene oggi, dai. Stamattina c'era un po' di umidità, ma è buono comunque. Cappa. Era scanalizzazione, ero. E senti tante, perché questo qua c'ha tipo il portatile, c'ha lo scan. Che senti in tutti i canali che va e... Cioè, parli tu e si blocca, capito? Claudio Perisella! Gianluca, bello. Ciao, ma non c'è Claudio, ciao Roberto, non c'è Claudio. Ho appena acceso io, chiamata adesso a Tantunio, non lo so, non ho sentito nessuno. Non ho sentito per niente a Claudio. Luca, tu non sei a casa tua sicuramente, no? No, sono giù, dai, stavo levando il golfo, c'è un caldo qua. E anche questo c'ho, anche questo era 48, Anturo, lo stesso ce l'ha sulla scansione dei canali. E Bino qui c'ha quante memorie? 5 memorie più l'emergenza, diciamo l'evoluzione della RAM 48 normale, è più bellino però, non so come esca, perché ce l'avevo in macchina, me l'hanno regalato Salvatore Maestrale qualche anno fa, l'avevo provato solo in macchina, qua in stazione non l'ho mai provato. Chi è questo che stai utilizzando adesso? No, questo è il solito. Cappa. Questo qua è un altro parecchio, l'Intec 790 Plus, va che una cannonata va a me. Sì, no, c'è un bacino, vabbè, c'è qualcosina sotto sicuramente. E che microfono sta utilizzando? Il suo, quello dell'apparecchio. Ok, che cos'è l'apparecchio? Come si chiama? Intec? Intec 790 Plus. Ma cos'è? Il veicolare? Appa. Ma voi ci avevate nel motocarro, ci avevate il baracchino un periodo, no? Tu? Ehi, anni fa veda via me, poi l'abbiamo tolto. Buonasera. Allora, Claudio, tu mi hai deciso, ti ha cercato Luca adesso? Sì, ero nell'altra stanza. Stavo un po' riposando, per mettere un casino. Buonasera a tutti. Buonasera Claudio, buonasera. Ciao Antonio, mi sembra c'è un break avanti. Siamo prendi un po'. No, non hai radio Claudio, sei completamente senza radio. Ciao, buonasera. Claudio! Sì, ti ascolto molto male, molto, molto male. Segnale è buono, sì, quasi 9:20. Però radio non ce n'è, Roberto. Sì, vero, non ti sento, sento la vocina poco a poco sotto, tipo quando stai saturando. Ma c'era Luca che ti stava cercando. Ehi, me l'ha detto Roberto, già so qua se mi vuole. Caffa. Beh, Claudio non esci, no. Boh, io non lo sentivo. E basta, no? Non sentivo altro. Sicuramente ha qualche difetto. Eia. Ma che ti sentiamo, Claudio? Sì, diciamo bene, anche se c'è un rumore sottofondo, forse qualche vento, la bu. 9:15, solo. Eia, c'è Antonio pure, ti rilancio Antonio, avanti Antonio per Claudio. Tappa, salutoni Claudio, buonasera. Non è che io ti ascoltassi bene, Cla. Non è che ti ascoltassi bene qua. Io sono più lontano di loro. Però già ti tiro fuori lo stesso. Ora sì, vai Claudio. Già sono qua Claudio, ciao, buonasera, ben ascoltato. 9:20 stai arrivando, radio 9:55 comunque 4 oltre la loro, è abbastanza comprensibile. Fai danno? No, stavi gracchiando. No, ma diciamo che già è chiara la modulazione, già ti sento, però è un po' cupa, dai, così, però dai, già va bene, parece una radio di quegli anni, già sta uscendo, non ti preoccupare, non toccare altro, dai, avanti, Roberto. Claro, secondo me, vai, quel microfono non è che si addice bene a quella radio, vai, c'è qualcosa, rimane un po' citofonica la voce, ti capiamo, però non è un granché, sinceramente non mi piace. Poi c'è un po' di rumore di fondo, poco fa, come hai toccato qualcosa, c'è un rumore alternato esagerato. Secondo me quel microfono non va bene, magari deve avere anche l'impedenza, eccetera. Vai a tu. Antonio ci deve essere assentato. Io sto andando col 574 Claudio, col 78574 della Midland. Come mi ascolti di radio? Claudio. Forse ha cambiato radio. Sì, il microfono MB più 5, è quello che è della LAN 48 che stavo usando sempre. Già va bene, già va bene. Avanti Roberto, per salutare a Gianni. Ciao Gianni, buonasera, ben ascoltato. E io ciao Gianni, ben sentito, dai. No, questa radio probabilmente vuole un po' migliorata, questa che state utilizzando, perché ogni tanto sento questo ronzio forte, vari, cercate di migliorare qualcosa e occhio non sfasciare niente, soprattutto. Eccomi qua, sono rientrato, E io. Cambiando l'acqua agli olive. Ma mi avevi attenuato, Roberto, lo fa. Adesso ho abbassato la potenza, puoi anche togliere l'attenuatore. Sì, adesso c'è 9 più 50, perché poco fa è troppo forte. I 4 watt, cioè, poi se aumento la potenza sale. Però adesso c'è 4 watt, quindi già va bene, mi dovresti sentire bene. Il problema, siamo troppo vicini, va bene. Avanti, Anto. Capa, già lo grido, già, Ocra. Siete un bel vicini siete, è normale che faccia così. Sono io, ma che c'era anche Gianni Capri 2 c'era? Sì, c'è Gianni con Claudio, stanno lavorando su una radio, vediamo un po' se vuole riprendere Gianni, ma Claudio mi pare che si sia allontanato. Gianni, se non funzionava e sta funzionando vuol dire già va bene, c'è un problema. Avanti Roberto. Io adesso troppo come devo muovere, dai, continuate voi che devo far cosa, devo uscire, poi Claudio già ci sentiamo domani per quattro. Ehi, va bene, io dopo che stiamo al cane sono libero, quindi chiamami quando vuoi. Ok, avanti Anto. Ciao, ti volevo chiedere una cosa veloce. Quell'antenna che c'è vicino è sempre di CB, quell'antenna che c'è vicino alla mantova, quell'antenna alta. No, quella è per gli HF, fa da 1 a 30 MHz, 5 bande mi sembra che sia, ma l'ho messa per il ricevitore, più che altro, l'ho messa così, ce l'avevo da tanti anni, nuova, infatti la dovrò smontare che tanto non mi interessa, devo mettere un'altra antenna diversa, una verticale messa in un altro modo. Ah, cappa, ma fa 5 bande addirittura quella? Sì, è una data maestrale, l'aveva comprata lui, l'aveva piazzata, ma è un bel manna, vuole poi regolata bene perché la vista rimane un po' girata, c'ha degli innesti particolari, se non li centri bene rimane un po' cucuccata, c'ha delle frange per bloccarla, adesso mi devo fare delle prove e poi la tiro giù, e tanto non mi interessa. Ah, cappa, ho capito, va. Pensavo che era, per quanto era grande, pensavo che era un'antenna CB, invece va bene per tutte le bande, 5 bande, dai. Sì, va bene anche il 27, però non ha la resa della manta, ma è un'antenna, un compromesso, dai, riesce a farti i 40 metri, 80 metri, eccetera, però la 27 la manta va meglio perché c'è una larghezza di banda un pochettino più limitata, per cui è studiata e calibrata proprio su quella frequenza lì, queste ci sono delle bobine dentro, eccetera, cercano di fare un compromesso, ma diciamo per uno che non ha tanto spazio, perché radioamatore che non ha spazio, ti metti quella lì e un po' riesci a fare qualcosa. Ah, ho capito adesso, va. No, perché cavolo, non capivo come, che cosa era. Andava, dai, ti lascio andare, sennò poi andate. E dai, ci sentiamo, ciao Gianni, ciao Claudio, ciao Antonio, l'altro Luca se c'è ancora, e poi tutti gli eventuali amici qua su 10. Io scappo, ciao. Ciao, Roberto, prossimo. Ciao. Ehi, allora possiamo tirare sulla potenza, sono, da Roberto mi deve attenuare perché sono oltre il fondo scala. Va bene. Avanti Capri, stai facendo cosa? Ma se l'hai inserito poco fa stava facendo un sacco di rumori. No, c'è un rumore di alternata, c'è un sacco di casino, rimetti l'altro. E infatti l'alimentatore è un casino. No, io ce li ho, sono tutte così, capito? Già va bene, tutte a 220, tranne questa che la sto alimentando a 12, però gli altri sono tutti a 220. Va bene, avanti Anto, riprendi. Capo, era un apparecchio valvolare, era? qua, quello che sta usando Claudio, sì, è un Comstat 25B della Fayette. Sai che mi sta chiamando mia cognata, un attimino, Cla. Ehi, va bene, va bene. Quindi non l'avete terminata, Cla, quella radio ancora, ancora da vedere qualcosa? Vai, già sono belli io. Il DAC adesso, vabbè, lo sto accendendo poco, c'ho questa, c'ho l'altra, c'ho l'Inoiti, c'ho il Puni, c'ho il Pace, ne ho tanti adesso, ho capito, quindi sto facendo girare questa. Però il DAC è sempre accesa, in stand-by, in modo che quando mi serve, comunque l'antenna la uso, perché quella ha bisogno di scaldare proprio col sistema tutto a valvole. Queste invece sono un po' più transistorizzate, quindi no, non hanno quella grande pretesa di stare accese tanto tempo, capito? Bisogna fare sempre manutenzione. Avanti, io vado. Capatra, un attimino che è arrivata gente, ci sentiamo dopo, ok? Cappa di Roggio, va bene, dai, ci aggiorniamo dopo, allora intanto io già sono qua a casa. Quindi sto uscendo bene, Clark, con la 574. Via, Cappa, lei va bene, noi c'è un altro tipo di modulazione. Questo è, diciamo, modulazione Midland, però vanno bene tutte e due, sono contentissimo, anche gli altri, anche il Pony, anche il Pace, l'Inter, che vanno bene tutti, da. Vanno bene tutti, infatti ce li ho tutti accese in diversi canali, senza antenna naturalmente. E vedo che non entra neanche segnale, quindi la commutazione è buona. KK, cosa stavo dicendo? Invece novità per il Comstat 23, il Mark 6, niente ancora, pezzi non sono arrivati. No, ma guarda, io ti ascolto bene, il segnale è molto buono, 9+20, la radio 5 non te la noti, do 4, però è molto comprensibile. Secondo me si tratta di abbinare qualche altro microfono, meglio di quello, e vedrai che spinge, poi magari una taratura leggera su, per quanto riguarda la modulazione, e la radio è a posto. Va bene, poi mi farà sapere Gianni quando riceve appunto il materiale del 23, del Constat 23, vediamo come va, bene, calata la temperatura di nuovo, stava bene, adesso nuovamente, infatti c'avevo la finestra aperta e l'ho chiusa. KK, va bene, no, ti ripeto, io ti ascolto molto bene, il segnale è abbastanza buono, si tratta di dare un po' più di tonalità alla radio e basta, per il resto per me stai andando bene, quindi avete fatto un ottimo lavoro, già va bene, poi tuo padre già si appenta, come si dice, in queste radio vintage, quindi lui è soprattutto sulla parte valvolare molto bravo, quindi sicuramente riuscirà a farti uscire meglio di come stai uscendo adesso, Cla, non c'è problema. Aspetta, Cla, stavo cambiando radio. Cla, ci sei? Stavo alla radio in casa di Dio, boh. Questo è il 294 della Inuit, ho commutato a questo, vabbè, il microfono è sempre quello, non è che cambia, ma infatti te l'ho detto, se stai attento sono praticamente quasi uguali, dai. Sono praticamente quasi uguali. No, vanno bene tutte, non mi posso lamentare, qua. Posso commutare tranquillamente e stare tranquillo perché escono bene tutte, capito? Beh, DAC è un po' più selettivo, è come radio, questo tiene conto che è un 23 canali, quello là è diverso, è un sistema valvolare, cioè transistorizzato, con lo stadio finale a valvole, quindi è molto, la modulazione è molto più calda e tutto, capito? Però, ti ripeto, no, non mi posso lamentare. Le radio che ho sono veramente in ordine perché sono nuove. E poi sono tutte funzionanti con i suoi microfoni, cambi, sporti e le usi, dai. No, perché appunto da quando ho dato il 574 sono sempre in funzione. Linoite è sotto, quindi ho detto, ah, esce che è comodo. Vediamo un po' se se ne accorge, ma ti ripeto, ha una bella modulazione anche questo, non c'è problema. Lì sì, ci puoi abbinare il Turner più 3 o addirittura anche un Turner più 2 da tavolo, o anche la Palmo, perché il Constat lo porta molto molto bene il Turner, lo porta molto molto bene, quindi devi trovarti quei tipi di microfoni lì, claro. Poi lasciamo un attimo di bianco, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare. No, non c'è nessuno, io non ho registrato nessuno. No, ma ti ripeto, i valvolari se sono a posto vanno molto bene, io il DAC ce l'ho tanti tanti anni. E non usandolo chiaramente come San Gianni sono andate a farsi fottere le valvole. Poi me le ho procurate lui, le ho messe, da quando gli ho messo le valvole quelle sono molto buone, non si sono più diciamo danneggiate, ma anche perché lo tengo molto acceso, anche se non lo uso lo tengo acceso, invece prima non c'era proprio, era sempre dentro l'armadio, capito? Quindi non avendo tensione, non andando almeno in ricezione, invece così ho la possibilità di usarlo perché ho fatto il lavoro che ho fatto, come ho detto a Babbo, quindi ce le ho tutte sotto controllo, le accendo tutte, le uso, tutto qua. Se no va a finire che poi si rovinano di nuovo le valvole, Gianni mi ha detto che sono anche difficili da trovare adesso. Prima c'era il giro delle valvole di questi tipi di radio, adesso è un casino a trovarle, quindi bisogna stare attenti, capito? Sì, sì, sì, 40 watt. 40 watt, però in SSB, 40 watt li dà in SSB, in AM ne dà una ventina, capito? Peccato non l'FM perché, ma in FM ne dava ancora di più. No, va bene adesso, va bene. No, quelle che c'erano erano già usate, me le avevano date già usate, mentre quelle invece che mi aveva dato tuo padre erano praticamente nuove, non ho fatto altro che toglierle. Ma gli altri ne ho completamente esaurito, li ho buttate via, capito? Ho preso le sigle e le ho buttate via, perché erano completamente esaurite, cioè dava neanche un watt la radio in trasmissione. La ricezione era talmente sognali, 1, 2, massimo 3, capito? Poi quando ho messo le valvole nuove, sia in ricezione che in trasmissione, è tornata alla normalità. I segnali sono giusti, i watt sono quelli che deve dare, capito? La radio è tornata perfetta. Sì, intanto lascio un attimo di bianco. Sì, sì, sì. Beh, per il 25B a me piace molto più il 23, il Mark 6, Hai visto che colonnina che ha davanti, proprio bella, quadrata, cromata, molto molto bella. Quella quando è finita è una bellissima radio, molto molto bella. E poi è introvabile, cioè sono molto molto rare. Io mi ricordo di non averla mai avuta quella, il 25B e il 35B sì, ma quella, il 23 Mark 6 no. Quella no perché non ho mai avuto la possibilità, e quando abitavo a Bortone a casa di mia madre tutte le persone che avevano un baracchino allora, che erano tante, erano molto anziane, chi aveva il Tenco 46T, il 23T, chi aveva il Perception, chi aveva il Pony, chi aveva il Constat 25, 35, parecchie radio ho visto usate, usato anche, non solo, però quella non mi ricordo di averla mai vista nessuno, ho capito, proprio perché sicuramente è una radio molto rara e sicuramente anche in quel tempo lì non si trovava, perché mi pare sia del 67-68 quella radio, Ciappa. Sì, sì, e adesso vediamo quando arrivano i pezzi cosa riesce a fare con quel 23 Mark 6. Lo sentirò più avanti, dai, quando è messo a posto, non c'è problema. va bene, vediamo un po', c'è Antonio rientrato. Antonio, ci sei ancora? O sei ancora impegnato? No, è Antonio ancora impegnato, vabbè. KK, e io alle 8:30 c'è la partita oggi, c'è la Juve, gioca in casa, diamo uno sguardo. Solito tra, io sono sempre a casa, Claudio, sempre a casa, non sto uscendo perché ho paura di questa cosa, poi vabbè, c'è mia moglie che ha bisogno di assistenza, adesso domani mattina mia figlia vuole appunto, vogliono aprire, quindi visto che c'è questo lockdown maledetto, recuperano un po', quindi domani mattina lavora. E io mi devo rimanere a casa, perché c'è da fare le pulizie, c'è da fare tante cose, capito? Quindi no, non è che ne ho molta voglia in questo periodo. Ci ricorderemo parecchio del 2020, che veramente è andato molto, molto male, sia economicamente che a livello appunto di tutto quello che è successo. Spero che cambi. Sì, ho capito chi è, me l'ha spiegato tuo padre, che è quello che è morto. Lo so. Questa pandemia sta facendo veri disastri, ma mi sono morti due o tre amici che conoscevo, che ho anche frequentato, due della mia città, di Porto Torres, uno di Sassari, quindi ne so qualcosa. Vabbè, cosa vuoi dire? È molto, molto importante stare a casa, preservarsi in tutto e stare molto attenti a chi si frequenta e con chi si esce, eccetera, eccetera. Quindi per me, io ti ripeto, sto molto, molto a casa. Esco proprio qua vicino a casa, c'ho il tabacchino, c'ho tutto e adesso mi sono fatto la scorta delle sigarette, in modo che non esco neanche, capito? Non esco neanche, sto a casa. Da fare già ne ho in questo periodo, quindi va bene così, avanti, riprendi. Ehi, ehi, no, io sono uscito dopo pranzo proprio, alle 2 siamo andati a fare la spesa con mia figlia, abbiamo fatto un bel carico di tutto, riempito il freezer, riempito tutto, e quindi per tutta la prossima settimana siamo a posto. Molto probabilmente prima del 24 servirà qualche fesseria, ma niente di che. In modo che non ho problemi, non ho problemi di stare in giro a destra e a sinistra, fare fila qui e là. Abbiamo preso tutto quello che serviva, capito? E poi io ho la coppa che è qua a due passi, ho le spine a due passi, ho le medine a due passi. Quindi non è che debba fare molta strada, capito? È lì il problema, bisogna stare attenti agli altri, perché anche se tu sei tranquillo e sei coperto e usi tutte le precauzioni, c'è sempre quello che non le usa ed è un pericolo. E tanta gente c'è ancora, credimi, che c'è tanta gente in giro che è convinta di essere immune a questa pandemia, ma non è così, non è esattamente così. Bisogna stare molto attenti. Quindi, vabbè. No, io l'unica uscita che faccio col mio cagnone, una passeggiatina, ma qua nel quartiere proprio, mi allontano sino giù all'edicola, oppure qua nel giardinetto comunale, o addirittura rimango all'interno perché è abbastanza grande, giusto per non avventurarmi, capito? Tutto qua. Vabbè. Va bene che va bene, speriamo di rientrare alla normalità il prossimo anno, me lo auguro per tutti, perché veramente così non si può andare avanti. Adesso tu considera che tutti aspettavano di poter stare a casa, sì, ma in compagnia, e invece cosa succede? Che dal 24 al 27 nessuno si può muovere di casa, restrizioni totali, poi tutto il resto dall'inizio dell'anno sino al 7 di dicembre, sino al 6 di dicembre, cioè è veramente una cosa vergognosa, o se vogliamo dire brutta, per chi non vede i propri casi. magari durante l'anno, capite? Veramente brutta, io sono anni, dall'anno scorso che non mi muovo la Sassari, che non vedo i miei parenti, i miei fratelli, le mie sorelle, non vedo nessuno, mia madre, non vedo nessuno, capito? Come niente, isolato completamente. Lascio sempre ogni tanto un attimo di bianco, se vuole entrare qualcuno siamo qua. E allora è così, Clano, ti ripeto, bisogna stare molto molto con gli occhi aperti, frequentare il meno possibile dove c'è gente, soprattutto ci sono assembramenti, ma anche oggi vedi al market non era una cosa che andava bene secondo me, anche se tutti erano con la mascherina, però nell'ortofrutta, nei generi mentali, in generale c'era troppa gente ammassata, capito, uno vicino all'altro, e lì chiaramente il gestore deve capire che non si può entrare tutti così ammassati, quindi doveva essere già un sistema di scaglionamento, capito? Quante persone ci sono dentro? 10, 15, basta. Fino a quando non esce qualcuno, non entra. Aspetta che risponda al telefono, tra. Poi Claudio! C'è qualcuno qua? Poi buonasera Claudio! Il capo Antonio sono! Il capo dai, sta maneggiando le valvole, no? Io fra poco devo scendere giù con i fornelli. Ok. E KK, dai. Dai, io vi saluto, ci sentiamo dopo, ok, Cla? KK, dai, io vado ai fornelli che devo preparare, passare il forno per domani. Ok, dai, ci sentiamo. Ciao, ciao, Claudio. Eccomi qua, scusate che ho il telefono. Chi ci è rimasto? Ah, Antonio Bobo è rientrato, no, io ho passato il volume perché ero al telefono. Va bene, Antonio, già ci sentiamo anche dopo. Tanto io sono qua in stanza, dopo me lo guardo la partita, come ho fatto l'altra volta, uno sguardo la partita, due chiacchiere, vediamo un po'. Quindi non hai notato differenza tra il 294 e il 574? Oh, no, il microfono è uguale, il microfono è uguale, i watt sono uguali, 4 watt c'è una, 4 watt c'è l'altra. Però il microfono è sempre quello, capito? Lo cambio perché l'altro tanner, quello qua, l'altro MBP5, quello che c'era sull'Inuit, che è connessione Midland, quello lì ha cambiato le connessioni, Luca, e l'ho messo sul patch, e quindi non va, ma è al contrario la commutazione. L'altro ho messo il connettore a 5 sull'Intec, e quindi questo che è Midland praticamente, va bene anche per l'Inuit, lo inverto, lo passo da una radio all'altra, capito? Poi il microfono è sempre quello, per quello la modulazione è quella lì. Poi sai benissimo che il 294 ha anche il Mickey Gay, quindi spinge parecchio. E glielo so chi l'hai dato. Va bene, va bene. No, va bene, questo è del Midland, dell'anno 48, il microfono è uguale. Quindi no, non cambia assolutamente niente, anzi, il colore è il colore suo. Va bene, va bene. Quello dell'Inuit ce l'ho, suo originale, marcato Inuit, quello del patch è lo stesso, quello del Pony lo stesso, quello dell'Integra, c'ho tutti i microfoni suoi originali, nuovi, nuovi, quindi no, non ho problemi, dai, va bene che va bene. E babbo che sta facendo? Campa. No, già vanno bene, ma ti ripeto, qualità prezzo, questi MBP5 sono eccezionali con i vintage, io ne ho 4 più 1 che è testato Kevo da 8, quindi ne ho 5, volendo posso anche metterlo com'era, tanto non mi serve sul K. Però qualità prezzo, questi microfoni con i vintage si comportano molto molto bene, molto molto bene, perché sono microfoni che costano 50, 60 euro, insomma, da nuovi, e fanno il suo lavoro, vanno molto bene. Cappa, vediamo un po' se è rientrato Antonio. Ehi, Cappa, acclami, sto con i parenti la bagna a passare il forno domani, mi. Cappa, anche tu passa il forno domani, e io ho già preparato, già tutto pronto, domani mattina. mattina ci mettiamo, la prepariamo, chitto chitto, e poi la mettiamo al forno. Va bene. Saffa, mi ha pensato me a fare queste cose. Come pelati, cioè come non pelati, come sugo ho usato Antonella, secondo me è il più buono. Buono, sì. Io compro molto i pomodori molto maturi, capito? Pomodori molto maturi e faccio sugo con il pomodoro fresco. È molto molto buono. Molto molto buono. Non per la pasta al forno, però quando faccio la pasta al sugo, capito? Uso molto i pomodori freschi. Mi piacciono tantissimo. Gappa gappa. E tu cucinare sai, Cla? Sono buono. No, io uso il sugo fatto da me, non uso il sugo così. È facilissimo farlo, capito? Ad esempio ieri mia moglie ha fatto l'impasto, me l'ha preparato lei, l'ho seduta e me l'ha preparato lei, poi io le ho tutte preparate, le polpette, ho fatto le polpette al sugo. Ieri notte ci abbiamo fatto una bella mangiata con mia figlia che era a cena, sono uscite tantissime e ho lasciato un pochino, ho mangiato un po' di sugo e ho schiacciato tutte le polpette e a pranzo abbiamo fatto due gnocchetti con il sugo delle polpette, ma ti dico che era uno spettacolo. Ah, Anto. Mamma mia, non me ne fa pensare che cose, e poco mi piacciono a me. È facilissimo a farlo, te l'ho vista mia moglie come le faceva, ti ho dato uno sguardo, adesso la prossima volta le faccio io, però si vuole con la carne, delle polpette condite così, è fenomenale, è fenomenale, e vabbè, almeno mangiamo sano, dai, avanti Clavier. A chi piace anche un pochettino il peperoncino messo in forno, buona rete so. Stiamo parlando in due, cos'hai detto Anto? Ho detto che a me mi piacciono anche le melanzane fatte in forno, mi piacciono, spaccate in due, tipo come si fa un arrosto, capito? Spaccate e fatte così, messo il prezzemolo sopra, si ha uno ribiate pure un poco di peperone, un pochettino di peperoncino, ma buonissime. Ecco. È già stato un becco. Già sono buone, a me piacciono le panate fritte e le melanzane. Avanti, becco. Scappa, ben sentiti, Antonio Grode da questa parte. Ciao Claudio, ciao, non so dall'altra parte chi c'è, Antonio lo sento, ma Anto, ma cosa c'hai sotto? Anto, non hai sentito Grode? Oh, è parito, adesso l'ha chiamato la donna. Avanti Claudio, lo senti Antonio Grode? Tu eccomi, no, stavo girando, ditemi. Ti volevo chiedere, ciao Antonio Grode da questa parte, ma cosa c'hai sotto? Perché sta parlando Claudio? Si sta parlando. Adesso Anto, cosa mi stavi dicendo? Scappa, io non lo sento l'altro amico, a parte Claudio e te non sento nessun altro. No, ti volevo chiedere cosa c'avevi sotto, perché vi siete sovramodulati e qua si è entrato tu di potenza proprio. Oraccio, antennaccio. Vabbè, complimenti. Scappa. Ringo c'ho sul tetto. Ringo? Papà. Dove sei? Dove stai modulando tu? Zona Santo Pulinare lì. Tu. Papà, perché un bel forte ti arrivo? Sei coperto Claudio, vedi tu? La miseria. Vabbè che non so perché, ma in quella zona ci sono aperto. Si è attaccato a lui, e ovvio si è aperto. Scappa, te lo credo. Dai, un attimo che scendo giù a girare il sugo, che è quasi pronto. Dai, riprendete che io ci sentiamo dopo, ok? Papà, vero è anche che io ho il dipolo in questo momento. Ciao, Anto, ci vediamo, ci sentiamo dopo. C'ho il dipolo, quindi è girato da quella parte, è possibile. Ma infatti, se avessi avuto l'antenna non sarebbe passato sicuramente. Stavo guardando come è girato, come era, dove è girato, sì, infatti. Stavo guardando, io non so chi sia l'altro. Cosa tu? C'è l'altro in ruota. Chi è? C'è l'altro in ruota. Claudio da Muros, ma non ti sente? Oh, negativo, neanche io. Aspetta, sono in QRX un attimino, fallo, fai girare, richiamalo. Già, va bene, avanti Claudio. Oh, bianco per me, dai, che è quasi pronta. È quasi pronta, devo preparare la besciamella, tutto. Ok, dai, ci sentiamo. Sempre con linea d'attaccato, gira, ma c'è delle varia. Perché? Perché ve lo segnalo, glielo credo che passi da Antonio. Cazzo, faccio quattro fatti io. Cosa ne so, non me ne sono accorto che era attaccato. Ma io già lo vedo per il tuo segnale. Vabbè, dai, non fa niente. Ok, ci sentiamo dopo, quanto siamo qua, non ti preoccupare. Avanti, Claudia. Ehi, ehi, a positivo. Va bene che va bene, non c'è problema. Ma no, io te l'ho detto, sto andando col 294, infatti sono 4 di portante, sei modulati. Va bene così, non c'è problema. Poi qua sei fortissimo tu. Arrivi 9 più 20, perciò no, non c'è problema. Ottimo per la truppa. Vediamo un po' se vuole riprendere Antonio Grode. No, è evidentemente impegnato. E vabbè. E a che ora poi adesso vi allontano un po' la radio, se non sto tassare attaccato. Ma sono qua comunque, ecco, sono qua. Beh, sicuramente no, ti ripeto, se lì metti un bel microfono esci molto molto bene. Anche perché da quando hai iniziato a modulare ad adesso, la radio sta prendendo quota, sta scaldando, quindi sta, la modulazione si è molto perfezionata, capito, rispetto ai primi passaggi che hai fatto prima, capito? Ehi, ehi, positivo a capo di elogio, va bene, no, ma ti ripeto, se è quella radio tu la fai andare, ancora qualche altro accorgimento, la metti un bel microfono a tavolo, io sono convintissimo che va bene. Poi scusa, c'è l'MB più 5, non so se l'hai cambiato le connessioni, però quelle connessioni dovrebbero essere uguali a quelle del Midland, mi pare, o no? Sì, ma guarda, solo per la comodità di non avere alimentatore in mezzo ai piedi, sono favoloso, ecco perché ho questa scrivania qua, questa base, ho messo solo esclusivamente basi, perché ad alimentazione a 12 volt ne ho altre 3 dentro l'armadio, ho tolto anche l'airbag, solo a 220, capito, perché è comodo, io ho due prese, uno da una parte della base, uno dall'altra parte, quindi ho selezionato 3 da una parte e 3 dall'altra per non caricare tutto su una presa, ed è tutto a posto, va bene così, perché se no devi stare con l'alimentatore qui, là, cambiando, invertendo, senti rumori di vento, le balle, poi, invece così non senti niente, ed è tutto pulito e ordinato, capito? Kappa, ok, sì, ma infatti effettivamente è così, non è che cambia niente, non cambia assolutamente niente perché hai meno roba in mezzo ai piedi, mi capito, io non è perché posso mettere un alimentatore diverso, cambiare, metterlo, fare un sotto scrivania, metterlo lì, capito, e alimentare le radio che mi servono, però non lo voglio fare, voglio andare a 220 e così è tranquillo, capito, non hai roba in mezzo ai piedi, mi sa, tutto qua. Infatti valvolari devi cercarli e poi appunto devi essere sicuro che siano funzionanti, perché è inutile averli e poi non poterli usare. Io ho fatto una scelta e però sono tutte funzionanti, cioè non le voglio non destra, capite? Se una cosa che funziona va bene. Siccome non sono capace tra l'altro a metterli a posto, quindi non io posso caricare la casa del radio per fare vetrina. Adesso quello che ho dato a Gianni, quello da mettere a posto, appena lo mette a posto poi lo proviamo, vediamo, eccetera, però va bene uno, due, ma sai quanti ne avevo da mettere a posto io? Una gran parte li ho dati tutti a tuo padre e ce li ha tutte sistemate. Però ne avevo tantissime e si sono rovinate proprio perché non le usavo, come la linea di Kraft, come la linea Drake, come la linea Sommerkamp, come come tante altre, sono rovinate proprio perché non le accendevo, non avevo porto, non avevo spazio, quindi non capite. Invece questo è lo spazio, adesso c'è, ce li ho e li uso, no? L'importante è che funzionino, capito, Clavati? Sì, QSL, ti ripeto, se uno non c'ha spazio può fare tante cose, ma quando uno non c'ha spazio è un casino, Clavati. Non fa, io ne avevo tantissime, a parte quello che ho dato a tuo padre, ne ho dato tantissime anche a Roberto. Insomma, il campo il 101 Digital, che è fenomenale, bellissima radio, bellissima, bellissima. Poi ne ho dato UHF Basi, ne ho dato tanti anche a Roberto. Però c'era un po' di spazio, sì, avevo fatto, però non ci stavo più dentro, perché c'era l'altro pezzo della scrivania, l'altra base mi ha fatto tutto Giulio, una L. Praticamente da questa che facciamo io è 2,10 m, l'altra era da 1,50 m, quindi andava a L, non potevo affacciarmi alla finestra, niente, avevo tutto. Ho fatto così due basi, una su una parete e una sull'altra. Su una base ho fatto solo vintage, dall'altra parte tutta la parte HF e basta. Rimane così, è molto più bella, più ordinata e c'ho più spazio anche nel muovermi, capito? Sciatto un attimo di bianco, ma io non ho lo spazio, ho una stanza mia, proprio mia, dove chiudo la porta, non entra nessuno, questa mia moglie pulisce per terra e basta, una spolverare, a pulire, faccio tutto io perché non voglio assolutamente che tocchi niente a nessuno, questa è proprio una stanza, una vera e propria stanza dedicata alle radio, solo radio ci sono qua, radio e la TV e basta, non ci sono, non c'è niente, nulla, tutto, armadio, tutto, non c'è più niente, capito? Ci sono tutte le cartine geografiche, sia da una parte che dall'altra, orologio di stazione, c'è un angolo dedicato alle foto di tutte le radio che ho avuto da quando ho iniziato a trasmettere. Ad oggi no, perché non li ho, allora si potevano fare col rullino, però ce l'ho tutto sull'archivio del telefono, quelle le ultime insomma degli ultimi anni, ma ti sto parlando degli anni 80, 90, 2000, sino al 2005, tutte le fotografie proprio stampate dal fotografo, con tutti i quadretti ben riordinati, e ci sono radio spettacolari, c'è la linea 102 DM che è una favola, linea completa, c'è tutta la linea Drake, c'è un sacco di radio, linea 940, linea dell'820, 830, 840, tutta la serie 8, l'820, l'830, tutta la serie 1, dal 120 sino al 140, poi c'è tutta la serie del 4, insomma, belle radio, veramente tantissime belle radio, lì c'è un angolo dedicato alle fotografie, per il resto è solo sala condominiale, sala amatoriale. Sì, S2000 l'ho comprato nuovo appena era uscito, poi però non mi soddisfare, ma non perché non funzionasse bene la radio, attenzione, perché la usavo solo in VNU, in HF non la usavo. Allora avevo venduto quella, comprati due gemellini della ICOM, 275H e 475H, e li avevo separati, mentre il 2000 lo usavo solo in HF. Poi chiaramente l'ho cambiato e ho iniziato a prendere radio superiori, ma ne ho avuto tantissime, sia Yaesu, Kinvo, Kevod, ICOM, ma soprattutto Yaesu e ICOM ho fatto strage, ne ho avuto parecchie. Guarda, nella serie di Yaesu tanto li ho avuti tutte, io ho iniziato col Kenwood dopo proprio che ho mollato il 757, perché ho avuto il 757, il 757 GX e il GX2, li ho avute tutte e tre serie, linee complete, non so se l'hai mai vista, linea completa che c'è l'alimentatore con la colonnina anche, capito? E poi c'è l'alimentatore con la colonnina e poi c'è anche l'accordatore, il il TS, mi sembra, il TS757, che è l'accordatore automatico. Ho avuto tantissime, tantissime radio. Poi dalla IESO sono passato al Kenwood nel 1987 e da lì non mi sono più spostato per quanto riguarda i Kenwood, soprattutto in AM. Ho comprato il primo 430 da Mario Rottari, via Le Mameli, e poi sono andato a salire, insomma, capito? Ho comprato il 940, ho comprato prima il 940, il 920, poi il 930, poi il 940 della serie 9, poi quelli della serie 1, insomma le ho provate tutte, Cla, le ho provate tutte, tutte e tutte. Allora i primi Kenwood erano trio, praticamente erano transistorizzati con lo stadio finale a valvole, quindi dovevi accenderlo un po' prima, fare andare col preselettore, selezionare bene la banda. Ho avuto anche decametriche che ho usato in 27 come il 7B, l'FT250, l'FT200. Guarda, lascia perdere perché me le ricordo tutte e ci sarebbe proprio da farne un libro, forse non basta. Del 101 ne ho avuto tre, ho avuto il 101 normale, il 101S e il 101ZD. Se non tutte qualcuno l'ho saltata, ma poche ne mancano. Chi è che vuole entrare avanti? Ho visto una portantina, ma vorrei che stiamo iniziando nuovamente con le portanti. Riprendi qua. No, assolutamente, non ti preoccupare, quando a parte il fatto c'è un segnalone qua, quindi non ti disturba nessuno, vai tranquillo, stai andando alla grande. No, non ti preoccupare, ho visto un colpettino, ma niente di che, per quello ho detto c'è qualcuno che vuole entrare, siamo qua. Fiammante, chi vuole quella radio deve mettere su un'altra bella radio, altrimenti non esce da qua, gli ho già detto a tuo padre. Fiammante a dire poco, è impeccabile, tutto originale, con suo microfono originale, fiammante, tutta cromata, tutta bellissima, nuova, se vuoi ti mando una foto. È nuova, una vetrina, veramente, tutta in originale, nuova, proprio non ho niente da dire, non ho graffio, non ho l'orologio perfetto, sono le 6.33 su quello, 6.33 sull'altro, 6.33 sull'Inuit, è perfetto, poi è bellissima perché a banda orizzontale, verticale i canali, capito? Molto bella. Ripeto ancora una volta, avanti chi vuole entrare sul canale 10. Buonasera a tutti, Sì, sei tutto a ecco sparato. Gianni. Si era mosso la rotellina qua. Ah, ok. Ma tu li provo a fare? Cappa. Ciao Claudio, ciao anche a Chiodo Ruggini, vai, ciao a tutti gli altri amici che ci sono in roccia. Claudio, ma dai un controllo di Santiago in radio, per favore. Sono di meno di prima adesso. Oh, io. Aspetta un attimino, non si sa mai cosa sta succedendo. Ciao Gianni! Non sei uscito già, Claudio, da te c'è lo stesso segnale. No, da Claudio Sparvero si dice. Sì, sto andando con l'Inuit, ma sto andando con il Midland, sei 9, non so se sei liscio o sei, no. Allora devi staccare per vedere già. Prova, guarda, 1, 2, 3, così sei 9.20, il tuo segnale, attacca. Prova, prova. E così sei 9.30, sì, il tuo segnale è già. K, la radio perfetta? Sì, va bene. Vabbè. Qual è sempre il coso, il magno? No, questo qui è le linket. Va bene, già, ottimo. Avanti, bombo. Gaba. Bene, va, bene. Avanti, Claudio, riprendi, dai, parlate. Sennò mi addormento qua, intanto fra un po' stacchiamo, sennò siamo tutta la sera in radio qua. Gianni, Santiago 8 semi, tutto a fischi. Fillo! E beh! Ehi, qua siamo. Ah, ho detto, forse mi si è staccata l'antenna. nessuno. Venga, KK, dai, già sto ascoltando, Claudio, già sto ascoltando. Sinceramente mi sembravi Luca Manicomio, hai detto quello, infatti hai detto qua siamo, perché mi hai detto che stavi finendo, gran bel lavoro, Lugarie, complimenti. Esce, cazzo, uno spettacolo esce quella roba lì, Sì, le sto dando appunto il crono, mi ha dato la foto del fondo, adesso io gli ho dato la prima velata di cromo e poi vanno a susseguirsi le altre finché non viene fuori a specchio, capito? KK, aspetta, siete la fate quella commissione, tutto a posto? Non mi avete fatto sapere nulla? No, domani mattina viene lui, mi sono indicato di avvisarti, viene lui perché oggi non so cosa è successo, poi campagna, non lo so. Domani mattina viene lui, infatti appena arriva a Sassari mi chiama quella persona, l'ha capito? Avevo capito bene che veniva, doveva venire oggi, va bene. Portate niente, che poi sia tutto a posto e sia tutti contenti, e KK, va bene, dai. Riprendete voi, io sono all'ascolto, che sto finendo anche un'antenna qua. Ehi, avanti Claudio. C'è che lì arrivo, Cla. Tu arrivi a tutte le parti o quel di poco, c'è un maestro delle antenne. Vabbè, questo è fatto in cavo, è fatto in cavo quassiale, non è fatto in cavo elettrico. Carita, KK, per essere puntato così. Va bene, già sono in ascolto. Va bene, vediamo se c'è Antonio Bombolo. Aspetta un attimo, vediamo Gianni Doppio Roma cosa ha combinato, che mi è sparito il segnale da 9:20, è andato a Santiago 8, tutto a fischi. Gianni, io voglio solo comprendere cosa stai combinando in chissà station. Voglio capire cosa stai combinando, doppio route. Ma dove è a casa sua, perché qua? Sì, ma è sparito, ha iniziato a fischiare, a calare il segnale. È un periodo, le Gianni, con tutti questi manovri, non mi piace Manuta, è stato sempre bello pimpante, è un periodo che ha un sacco di problemi. Oh già, sei tutto messo male, cosa ti è successo? Sei tutto a fischi, tutto... Perfetto, ok. No, è tutto... non so già, veramente, no, number one. Il number one, sempre bello in ordine, è un periodo che è un sacco di problemi, non capisco il perché, se sei tu che sposti, che fai, boh. Se l'ha figata la Matterland. Ma secondo me, Clara, neanche ti sta sentendo Gianni, perché ti parla sopra con questo cavolo di fischio che ha, forse è una ricezione. Da Matterland. Gianni, ma mi senti? Non lo so, dimmi a tu. A tuo pari è arrivata la Matterland. Cosa vuoi dire? No, Gianni, sei tutto... non lo so. Sei tutto a fischi. Alberto, ti è piaciuta la separazione che ho fatto? Bella, mi è piaciuta molto, molto ordinata e... tua. È un classico, dai, tuo. Sì, perché ne avevo tante di queste, hai capito? Quindi ho fatto praticamente una base, hai visto tutti i microfoni in linea, ogni radio c'ha il suo microfono, e l'altra parte invece ci sono le HF con le VLU, basta. Se no diventa un miscuglio, capito? Confondiamo la lana con la setta. Anche perché ci vuole spazio per avere questi tipi di radio, capito? Tutto qua. Claudio, riprendi, lascia un po' di spazio, vediamo se è Gianni sistemato. Sicuramente c'è l'impianto che non sta andando bene, Gianni, non sta andando bene, c'è da vedere qualche cosettina lì, qualche spezzone, cavo, non lo so, qualche spostamento che ha fatto. Infatti, ha dei fischi, il segnale è calato quando fa, non so perché. E allora, Grote, cosa mi racconti? Grote, Antonio ogni tanto entra e poi molla. Via. No, ho mandato la foto ad Antonio che no, forse non ce l'aveva. pensavo, infatti, hai scelto. No, ho fatto un bel lavoro, Claudio, veramente, avevo troppo casino, c'era. Ordinato, però allo stesso tempo era tutto ammucchiato le radio, invece così puoi apprezzarle di più, capito? Assolutamente no, non esiste, capito? Se no confondiamo l'A con la setta. Una la parte HF e si chiamano apparati. Questi sono baracchini, per me. Belli quanto siano, grandi quanto siano, sempre baracchini sono. E quindi vanno separati dagli HF. Tutto qua. Io c'ho il posto, l'ho fatto. Se tuo padre avesse avuto una stanza in più, visto che Ottavio oramai si è ritirato, capito? Una stanza in più, si poteva fare tranquillamente una bella sala radio, con tutti i vintage, con tutte gli HF, con tutte le cose, come ho fatto io. Perché anch'io avevo lo stesso problema quando ero nell'altra casa, avevo due stanze solo, qua ne ho tre, e quindi, capito, me lo adibita proprio a sala radio vera e propria, perché qua solo radio ci sono, non c'è altro. Eia, va bene, va bene. Vediamo un po' se Gianni ha sistemato. Gianni, mamma mia, non ci voglio essere a casa di Gianni, deve avere qualche un'incazzatura di quelle allucinanti, per come pignolo lui. Quando ha qualche problema le viene il sistema nervoso, le sale. Gianni. Vabbè, Luca sta sistemando roba. Vediamo un po' se c'è qualcun altro che vuole entrare sul 10, avanti. Non c'è nessuno. Beh, Claudio, io mi stacco, una decina di minuti, vado a bere un bicchiere d'acqua, fumo una sigaretta. Già, ci sentiamo dopo, lasci tutto acceso. Sono qua intanto io. Sono qua vicino, no, non c'è problema. Le radio sono accese. Va bene, aspettiamo se rientra Gianni. E anche là, sono anch'io qua con Rix, se entra qualcuno riprendo. Ok, riprendiamo magari dopo. Che mi stacco un attimino, vado a vedere se mia moglie ha bisogno di qualcosa. Già sono qua. Sì, dai, così dopo faccio girare un po' il dark, va bene, sono qua. Sì, lo farò leggere in bocco, però la semperri, no. Beh, finito, eh. No, sto sempre facendo, ma siccome sono in questa camera e ti ho sentito sotto così il PMR acceso, qualcuno il PMR c'è. Sì, c'è Gio Maria Comarino, infatti adesso mi alzo lo passo, che non mi abbiate mai facoltà di gogellare. KK, l'ho abbassato un po', dai. Va bene, Lucarie, sono qua comunque, mi allontano un attimino e vado a vedere se mia moglie ha bisogno di qualcosa, già torno subito, sono qua. Prego, ci sei. Ho messo a posto già. Ho messo l'aspettone nuovo, guarda come va. Sì, adesso sei perfetto. Ah, questi spettri lo stanno facendo, adesso ci ributto tutto. E li devo rifare, dai, devo comprare il PR, ma non ne hanno più le buche qua. Già, te l'ho detto, io ti leggo la parte di tutti. Quando ho cambiato, che ho messo il vintage, e ho iniziato a attaccare tutti gli spezzoni col commutatore, cazzo non ce n'era uno che andava bene, li ho tutti buttati via, li ho tutti rifatti noi, proprio buttati, PL e tutto, buttati via. Non ce n'era uno che andava bene, mai successo in vita mia, mai. Ciao Fra, buonasera. Ciao Claudio, buonasera. Sì, già, adesso va bene. Sto facendo benissimo. Mi state ascoltando bene a me, sì. Claudio, guarda da casa, come chiami? Beh, bene, bene. Sempre il solito tran tran, nel senso che ti porta via un po' di modulazione, ma abbastanza bene adesso già. Dai, io mi allontano, ti lascio con Franco, ci sentiamo tra 10 minuti o già, ok? Visto, tu troppo... va che ti basso, Gianni doppio ru. Vabbè, molto. Ho detto, io mi allontano un attimino, 10 minuti già sono qua, dai. Buonasera, buonasera. Ciao Antonio, e allora, proprio un vento ti porta a queste parti. Fammi, mi sta facendo la pasta al forno, sta facendo un po', guarda e a che punto è per domani. Ah, io me la faccio quello 24, la pasta al forno. Me la faccio quello 24, così almeno di notte mangiamo pasta al forno. Se la può presa, diciamo, vabbè, dai, che va bene lo stesso. Cosa stai facendo tu? Come mi ascolti tu di segnale? 9.30 radio 5 K. Claudio appena è molto più forte di te. Vabbè, ma io c'ho una posizione diversa. Quando eravate voce mi arrivava a fondo scala. Guarda adesso, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, cambio. Sei a fondo scala. Sei a fondo scala già. Che va bene. A voglia che va bene. Ciao Antonio, buonasera. Papa, buonasera,